Ho usato, se no, 4-5 volte per fare piccole riparazioni, non ha scaldato più. Quelle a ghiera sono i migliori. Sì, sì, sì, però poi vanno benissimo anche per il PL, perché ho provato a saldare un PL, guarda, è meraviglioso. Va bene, veramente bene, guarda, sono ottimi, ottimi veramente. Poi, passettini 1,80, cosa vuoi comprare? Tu pensa che l'avevo comprato uno anche da Bitcoin, ne avevo comprato a 100 watt, per dire chi fa. Mi sono arrabbiato e ne ho tagliato un filo, se l'hai rompato. Almeno il filo recuperato, con la spina. Sì, sì, anche quello là, tagliato il filo. C'erano sempre per fare qualche attacco anche agli alimentatori eccetera, si era giovantato, capito? Sì, tante cosa le faccio, come in gombolo, no, non mi interessa. Se l'avevo pagato anche di più, mi sembra che quello lì era per scendere di colonna, era 9,90, 100 watt, non voleva nemmeno uia, per carità, appena che l'ho messo la punta si è bruciata e un quarto d'ora, senza aver fatto nessuna grossa saldatura. Messo? Via, va bene, ciao, fa, buonasera. Un secondo che vado a mangiare al cane, ti lascio con Franco, avanti Franco. Ehi Kappa, ciao Claudio, ciao anche a Giulio. No, sono entrato solo per salutarvi, stavo andando via, sto uscendo. Ce l'avevo acceso, avete sentito, sono entrato per farvi un saluto. Niente di più. Ciao Claudio, me l'ho ascoltato, ciao anche a Giulio, avanti Giulio. Ok, ciao Claudio, me l'ho ascoltato dopo un bel po' di tempo. Vabbè, io ero sessantenna, per cui non potevo entrare, per cui non potevo, so, facevo ascolto, non si aspetta che abbasso la televisione, e qua mi si è accesa come ho schiacciato la portante, mi si è accesa la televisione, ecco qua, la spengo, vabbè, non si chiama, no, vabbè, ripeti che spengo, lo sa, fa. Cazzo, lei. Ma mai, cosa hai avuto l'antenna? Non mi dire che è di nuovo lo stesso problema. No, addirittura peggio questa volta ho dovuto sostituire il PL che ci ha attaccato in quella piazzina rotonda, quella di lamiera, no? Di lamiera zingata. Ho dovuto sostituire perché si era rotto il contatto centrale, la vergogna. E adesso sto andando con un dipolo, per cui sembra che va bene. Per il momento, infatti sarò anche più basso il segnale, ma è a livello di pavimento, diciamo, sto andando con un dipolo. Ah, sì, no, per qua, la radio è sempre bella, sempre Radio 5. No, andiamo bene, c'è un dipolo. Certo, chiaro. L'antenna, da quando l'hai presa, ha sempre problemi, con la mia... sempre toccata, lasciata, duro, più toccata, sempre buona, niente stazionari. Sì, beh, in effetti sì, ha avuto sempre dei problemi, elettricamente ha avuto dei problemi, sempre, e ormai tre volte, non è una volta solamente, però mi sono messo a casa, mi ha dirompata, l'ho già ripristinata, l'ho già messa a posto, lo stilo centrale non l'ho smontato, quello l'ho messo nel terrazzo subito, una strada, è lungo, è 8,40 metri il corso, il terrazzo da una parte, 8,40 metri dall'altra, e per cui l'ho coricato lì, il terrazzo non si è fatta più, lo lascio piazzato, la guerra non manca a capo di una piazza dove la prima, perché adesso non è più dove la prima, no, è basso, e prima era 5 metri più in alto, dal livello dove è adesso. Sì. Vabbè, le cose buone ce le tolgono, quando vai capita. Mantova la 1, la 5 non le potevano lasciare, per carità. Cosa ci vuoi fare? Tu sai, quando la cosa è buona la eliminano, perché se non funziona troppo bene e non se lo rompono più, non ne compra più la gente, perché dura la vita. Giulio. Natalia, ciao, avanti. Allora sai che sono andato stamattina dalla GBC a chiedere quel 747 per la macchina. Allora sai quanto mi ha sparato? Se te lo dico non ci credi. E non ce l'aveva neanche, ce l'aveva nell'altro magazzino adesso. E lì c'è 4, e quanto ha sparato? A me me l'aveva fatto pagare 60, ma io sto parlando già di un anno fa, quando l'aveva bruciato il fulmine, dunque. non l'ho più comprato, non le compro più, ma vado bene così anche senza. Non tutti ha sparato la tariffa, sono i compagni di Franco di Sorso. 80 euro, quello è matto. Vai, di la faccia di coperà, vai. Preferenza, per soddisfazione te lo ordini da fuori, ti costa una sessantina di euro comprandolo da fuori. Per cui, quattro basi, vai, vai. E di la faccia di coperà. Avanti la tagli per Franco, dai. Fra, mi hai sentito. Ehi capra, ciao Natalie, mi hanno ascoltato anche a te. Un po' più bassino sì stasera, come va? Male ti arrivo, e purtroppo sempre per quella storia là. Ah, ancora con la storia, per carità, non voglio. Ehi vabbè, là. Bisogna anche, come dico, rispettare anche gli altri. Beh, sicuramente sì, però... ma si è offerto lui di sistemargli la questione e invece come ha detto di aspettare, dice no adesso non aspetta un altro momento. E allora? Sono entrato. Guarda, aspettando io avrei lavorato tranquillamente. Va bene, dai signori, io lo devo uscire. Tutte le prossimine, mi stavo aspettando se entrava Claudio. Ciao Claudio, come tutto, dai, ce la ascoltiamo. E prendi tu e fai girare, ho detto per me. Ciao Fra, grazie di essere entrato, buona serata, con tutte le prossime, io vado a mangiare il cane. Devo aspettare sempre che finisca la metà dei monteghiri come tra i bicinetti. Ciao Fra, grazie delle due chiacchiere, alle prossime, vai Giulio. Ok, ciao Fra. Fate sentire, dai, la sera, ci sa. Magari tutti quanti stiamo entrando un pochino tardi, ma ad ogni modo già c'è sempre qualcuno la sera. Quando si libera naturalmente, sì, io so che tu lavori, per cui è ovvio che magari non puoi in certi giorni. Va bene, ciao Fra, alle prossime, grazie per la chiacchieratina, dai, ci mando avanti Natalino per i saluti. Vai Natalino. Ciao Fra, lo prossimo, va. Ehi capolai, ciao a tutti. Ok, ciao, ciao Fra. Allora, un bicchiere di vino gliel'hai dato al cane o Claudio? Anche un bicchiere di vino dai, è un bicchiere acqua minerale anche. No, non vuole vino, no, quel cane, quello vuole whisky. Sì, no, è San Bernardo, ciao Cali. San Bernardo, vedi la grappa, dove non mi vedi. Mi ha suonato così, ma io già dici che è già buono. Ma già bello è acqua, io ce l'ho qua. La devo prendere la voce, ho capito, un bidone, io ho acqua di rubinetto, o quella che è più acqua naturale, che c'è una fontana giù a San Lorenzo Valle, che non ho tutti anche per bere, capito, però anche fa canalizzare, perfetto, poi sa se c'è troppo cloro e magari le fa male, l'ho pregata, e si remi, fatto di camomilla, qui la camomilla mi sa imbottina, è già deve essere già anche zuccherata, mi sa che tu mi hai aggiotto, la ce la vedi tutta. Ok, era un vino, sì. Ah, usilo, c'è acqua buona, c'è qua, questa è buona sapirci, dai, alle volte, ma la bevi anche tu o solamente per il cane la prendi? No, è acqua buonissima, è una sorgente naturale. Giù a San Lorenzo Valle, dal bivio di Sennori, proprio scendendo o da Osero o da Sennori, capito? Da Sennori, e c'è una sorgente lì, proprio hanno messo il rubinetto, tutto, c'è un murettino, hanno fatto, è sempre pieno di gente, però l'acqua per bere, molto, molto buono, fatto analizzare, proprio zero, parametro zero, tutto naturale, da lì acqua più buona. Ero quella, io mi fumino a 20 litri, servizio, se va con il rubinetto non va bene per i cani. Oh Claudio, non vuoi andare a Bonino a pigliare 2347, allo santo vai parato, 80 euro, e cosa non ha, e fusaro non ha? Ma la GBC? E allora 80 euro mi ha sparato, e non ce l'aveva neanche, ce l'aveva in un altro magazzino, mi ha detto, cazzo, 80 euro, ma chi c'è Marco? No, non è sano di Gabbo, no. Tito De Ceno mi ha fatto pagare 2 BLN, connettori N, 4 euro l'uno, capito? io avevo comprato uno spinotto 8 punte, come quello che usa il 440 o qua. Me l'aveva fatto pagare 3,50 e sul criminale. Guardando al computer, sai quanto costa? 1,50 costa. E lui me l'ha fatto pagare 3,50. Tu stai dicendo, con le turienne sono cari. Al massimo che lo paghi 2 euro, e devono fatto pagare 4 euro. Ho bisogno di obiettorarci. Anche quell'attacco, come si chiama, quello per il portatile, il Voxion, mi sembra che sia uguale anche, però fai anche quelli lì, io c'ho il Voxion, lo metto lì, non mi ricordo, SNG o una cosa del genere, ma non me ne ammetto, lo metto lì, lo stesso, me l'ha fatto pagare 3,50 euro, capito Natale, quindi non ti preoccupare, e lui si è buono, guarda, il 747, ordinato da fuori, compreso il viaggio ti costa 50 euro. Ehi, ma già lo so, non è dire. Io lo stesso, da quello non ci vado, mi ha fatto pagare una più lunga, quanto è lunga? 1,5 metri, sarà 1,70 metri, non di più, con lo spinotto stereo, da 3,5 metri, no, spinotto è presa stereo, perché per la lunghezza, per la cuffia, insomma, ecco. Mi ha fatto pagare 8 euro e ti fai una bomba di bagno, ragazzi. Incredibile. E dici, no, come quanto è caro quell'uomo, per carità. Ma Marco, tu sì. Eia, dovete subire. Ciao a tutti. Claudio, ma io l'ho sempre visto almeno 50 euro il 747, più la spedizione, quindi più lo paghi. Poi stranamente lo trovi su internet, lo trovi raramente, se mentre i papelli 203 ce l'hanno quasi tutti, 747 non so perché sta diventando raro su internet. Perché è migliore, ciao Marco, guarda, io ti do il numero del telefono che ho dato a Gianni, che Gianni si serve sempre di Danilo, e Danilo te lo fa pagare 50 euro compresa spedizione, 45 euro, poi ti mette 5 euro di spedizione dentro una scatoletta di quelle piccoline e te lo spedisci, 50 euro spedito, è un ladro, io non so perché è diventato così, capito? La stessa cosa delle antenne, quelle UHF tipo X300, che sono marcate Lafayette, Midland, quelle lì, te la fa pagare 70 euro, una X300 della Diamond costa meno di 70 euro, hai capito? Nella Diamond, però. Sì, lo so. Purtroppo la Midland ha un preziario e lui segue il listino. Purtroppo lui segue il listino alla lettera, perché Natalino è andato a chiedere lineare, beh, quanto gli ha sparato. 80 euro mi ha sparato, quello è matto. Oh, quello è matto davvero, dai. Quello è matto davvero. 80 euro. Tanti Nandi. Natali. Guarda che c'è un bebù 131, se ti interessa. Con le valvole nuove. Ma mi serve per la macchina. Mi serve. Chi lo sta dando questo 131? Io ce l'ho. Vabbè, se ti serve per la macchina va bene. Ciao. Ciao. Tittina. Per la macchina la volevo io. No, per casa ce l'ho anche io, fra. Ce l'ho anche io, non è quello il problema. Perché il 131 nuovo, c'è neanche un Antonioti, io credo che lo stava prendendo nuovo, ma è trattato per tre sacchi. Dove serve per la macchina? No, ma prima no, assolutamente. Hai internet, lo sai anche usare, capito? Controlla lineari per la macchina. Se non digiti direttamente vedi cosa ti dà, perché di solito c'è sempre qualcuno. Ma ti ripeto, ho usato, ma ti conviene comprare più nuovo pure, capito? 95 euro costa fuori. Cosa? Fargli rubare di 50 zinco, buru, compreso in spedizione, ma andrebbe 80 venivano un bel. No, è una cosa allucinante. I PL, se tu vai a comprare PL, gli si imbattivite, non si viene a nulla, no? Mi fa pagare 2,50 l'uno, mi 2,50 l'uno, capito? È una cosa allucinante, il cavo, vai a prendere il cavo, vai. Vabbè, io inizialmente, siccome ci andavo spesso, sempre ci sono andato, avevo detto quanto costava la Camille, ma certo, io non ce l'ho, c'ho 213.000, però te lo posso ordinare, ho detto, beh, ordinandolo quanto mi costa? E intorno ai 4 euro a metro, non fare giù il jetflex. Io ho stato le grabbole su, cioè che io ho preso due piende di quelli professionali io qua, che si stringono con le chiavi addirittura, voglio allo stare come sono, e da parte da fuori però, 4,91 euro l'uno, ma sono le quelli professionali, di quelli veramente le cuoce di bocca, piene proprio da radioamatore, da stazione radioamatoriale. Ce lo vogliamo fare io sul tetto, quelli buoni, capito? Quelli buoni, li ho pagati a 2,10 euro l'uno, ordinati da fuori, me li hanno fatto arrivare una busta da 10, capito? Quelli di fuori, quelli di su, quelli invece di dentro sono quelli normali, bacchinite, quella marrone, quindi insomma un po' buoni, ma comunque non so come ti ha detto, però ma è un fatto furioso, infatti io sono andato da poco a pigliare cose che ho comprato, delle lampadinette, le radio che servono sempre, gli alimentatori, sono e dentro di sicuro filo attaccato, la tanto me l'ha fatto fare a dentro, in quello ci sono lampadinette minuscole, 5,10 euro, allucinante, lascia stare, un pingo, che vecchi sono i vostri, un pingo, questa vetrina sarà 20 anni che non la metta, mamma mia, come sto, vai Marco. E chi è questa persona che vende quello della CTE 50 euro, si può sapere? Potrei anche essere interessato io. Guarda, c'è il numero di telefono, ciao Sandro, c'è il numero di telefono, adesso non troppo serve il telefono, ce l'ho giù. Come si chiama Gianni? Dice Gianni, ti fa il numero di telefono. Dammi il numero di telefono di quella ditta, dove ti servi tu che ti ha dato il numero di telefono Claudio. Tu per chiamarla per elegante dei pazzi. Vuoi chiamarla per quanto ti fa? Non sono meglio pazzi qua, sassi. Tutti pazzi sono. Allora ti sa, buonasera. Chi è? Vale. Una volta che ti sei messo a dottire, sembri tu, con questo boccione da orco che c'hai. No, c'è una boccina piccolina. Boccina di da piccolina, vai. Vai, quanto giorno. Ciao Vale, buonasera, ben sentito. Sono io Marco Natalino e Giulio Rollaro. Vai per chi vuoi. Per Marco, che da tanto che non ho tempo. Marco, fatti sentire. Eia, io lo stavo dicendo ieri, è da un po' che non sento Alghero lì, che non sento nemmeno io, Franco, che si sta riducendo un po' la ruota, dai, diciamo, sentiamo orari più ristretti e siamo meno. Ciao Valerio, ben sentito dopo tanto. Sì, Marco, dopo tanto ci sentiamo. Questo è il problema, è che sto correndo qua e non vi ascolto. Io al massimo posso sentire Claudio che arriva forte e basta, capito? E il problema è quello, quando non mi sentite è per quello, tutto qui. Hai capito? Poco la fatto sentire, mi sento tanto però riesco a sentirti. Io vi attacchiamo anche la scarpetta, ma non c'è bisogno, no? No, non attaccare niente, che va bene. Ti ha trovato, in mezzo a correre, però resta a capire quello che dici, capito? No, tu arrivi forte, arrivi un bel forte tu. Fammi vedere il segnale un po'. Ci sto ancora pensando, 80 euro. Guarda un attimi. Non parla più nessuno? Sì. Tu un po' mi sento un attratto dal vero. 80 euro, io gli avevo detto, ma chi vuoi 80 euro per andare a fanculo? Mi dai 80 watt, un euro a watt, capito? No, un pacco furioso. Non siamo i debiti, non sapete. Ma quello forse è uscito fuori di testa, che non è possibile che possa aumentare così i prezzi. Allora, poi da un giorno all'altro in pratica mi aumenta, non è che devo... magari se vai domani è capace che chiedi anche di meno o forse anche di più, perché non è coerente con i prezzi, Marco? Ah, li fa in base a come si sente il giorno, così è. Allora, è un po' lunatico, quello lì è fatto così. Chissà perché ha cambiato questo uomo, non lo so, prima io me lo ricordo, da tanti anni che l'ho conosciuto, e non era così, poi forse gli è successo qualche cosa. Beh, io sapevo di sì. No? Claudio? Si è un po' lasciato andare quando è morta la moglie. Capito? Si è lasciato molto molto andare. Si aveva un dipendente che era la fine del mondo. Io conosco la ragazzina perché il padre lavoravamo assieme a un dottore Giallini che Massimo. Molto bravo, molto preparato, è entrato io, non sapeva nulla. È diventato meglio di lui, capite? Se n'è andato a chiedere sopportabile, l'ho trovato, ma perché non si poteva più vivere, ma sono andato, il telefono un attimo. Ok, riprendo io. Senta Valerio, non credo che tu mi ascolti comunque. Avanti Valerio, che mi ha ascoltato, Giulio da Sassari. Ecco, non lo sento. No, non sta parlando. Lui arriva bene quando parla. Allora c'è un negozio qua, Top Gear. Francamente non so chi sia, cosa faccia. Diciamo che ha roba per macchina, no? Veicoli fari più accessori per i veicoli hanno messo lineare, però costa 57 euro più IVA. No, troppo, è troppo. Non esistono. Anche qua è caro, vedi? Beh, andate lì, io non, Valeria non lo sento, e boh, non so cosa stanno parlando. No, no, negativo, non stanno parlando. Perché se c'è un po' di QRM, Santiago 3,4 qua, lui di solito mi arriva a Santiago 5. Guarda, sto cercando questo HF747, che ormai si chiama HF747, viene detto Midland, però mi appaiono tutti questi siti, di usato, oppure ne parlano nei forum, però non trovo negozi che lo vendono, non ne parlano, lo vendono usato, ma non trovo un negozio che lo venda, ma te l'ho detto come l'altra volta, forum free, media groppe, ma non c'è, non lo so, sta diventando più raro del platino questo linearetto. Quello che hai tu è buono Marco, quello RM310, come così, no? 301, buono, me lo ricordo bene. Quello che hai tu è buono Marco. Sì, però ha delle... vediamo se c'è... aspetta, Natalino? Un attimo, sono al telefono. Ok. Allora Giulio, ti spiego. Io ho l'antenna con base magnetica per la macchina, un'antenna da 1,60 m a base magnetica. Quando io mettevo quel lineare e attaccavo, no? Andava in auto-oscillazione, praticamente il lineare rimaneva in trasmissione da solo, anche se il baracchino tornava in sezione, il lineare rimaneva in scatto ed era un'auto-oscillazione non so di cosa, di quel punto. Ho risolto mettendo un filtro, il famoso filtro 27586, che riduce peraltro anche le armoniche e le spurie, no? Per evitare di disturbare radio e TV. Ecco, da quella volta stacca sempre, ruba 10 watt, che adesso anziché 80 watt ne dà 70, ma te li dà puliti anche. Però conta una cosa, io ho la base magnetica, può darci che da Natalino, che ha la massa effettiva, funzioni bene. Quindi noi prima facciamo la prova con Natalino, glielo presto e se lo mette in macchina. Una volta che abbiamo appurato che con lui va bene, se lo ordinerà dal sito Radio Hotel, che è quello che fa il prezzo più basso. Sì, perché è così infatti che bisogna fare, certo. E sicuramente con l'antenna fissa direttamente, senza la base magnetica, suppongo che vada bene e svilupperà tutta la sua potenza, senz'altro. E vabbè, comunque, e io sto andando con il polo sempre, per cui... macchina a questo momento già mi sento, poi vabbè fuori non lo so, non so se riesco a fare gli ex, comunque al momento sono con il polo e va bene così. Un attimo che sto cercando il negozio e sono qua. Ok. Comunque questo dell'autooscillazione è una cosa un po' endemica, potremmo dire, no? Caratteristica di quelli in Arezzo. Qualcuno addirittura li ha auto-oscillato da casa, credo siano rientri di RF. Ecco qua, vediamo un po', 40 euro più 8 euro, eccolo qua, costa 40 euro più 8 di spedizione, lo vende la Radiotel a Battipaglia. Ok, sì, io l'avevo visto già dalla volta scorsa, da quando l'avevo comprato, avevo un po' sondato sul PC e avevo trovato in parecchi posti, mi ricordo appunto, un bel apparecchietto anche come struttura meccanica, è bello, guardate, è più bello del 747 secondo me. E dove tu mi stai dicendo che funzionava bene, io tutte le volte che ti ho sentito quando tu hai attaccato, ti ho sentito a meraviglia, rendeva molto bene, per cui perciò si può anche optare per quello anziché per il 747. Il 747 va bene, non ci sono dubbi, però mi sembra un pochino delicato, mi sembra, nel senso che magari basta uno nulla per farlo saltare. Allora, io so che c'erano due edizioni del 747, credo che la versione attuale, il 747 dentro ha un RMKL 503, cioè 747 è il nome, ma dentro c'è un RM Italy, capito? È proprio la scheda dell'RM Italy, così sapevo io almeno. Solo che CTE costa di più, è inutile, il mercato CTE, la roba CTE costa di più. Allora, eccolo qua, a 10 watt in ingresso, almeno aveva, qua vedo che hanno cambiato i parametri, qui aveva 10 watt MFM in ingresso, 20 watt in SD, qua dice invece 5 watt in AM e 10 in SSB, forse per non saturare, perché con 5 watt non satura, se vai per esempio se sali tipo con 7 watt satura già, è una cosa che ho provato io, quindi se vuoi uscire pulito gli dai 5 watt e ti dico già che con 5 watt dà già il 90% della potenza lineare, da circa 90 watt. Quindi non c'è bisogno di mettere 10 watt, va pilotato molto in basso. Eccolo qua, se vuoi ti mando anche la pagina, ce l'hai WhatsApp tu sempre, sì? Sì, certo che ce l'ho, caspita, perché, e lo uso anche molto io WhatsApp. Sì, manda, non ci sono problemi. Sì, appunto, infatti vi volevo consigliare quello anche a Natalino, visto che lui è intenzionato a comprare lì a letto e secondo me si può comprare anche quello al limite. Quale giù? RM300 mi sembra che si chiama, ce l'ha Marco, è un ottimo lineare, secondo me è anche più affidabile delle 747, esteticamente a me mi piace di più, adesso che 747 va bene, però anche quello di Marco, infatti lo stavo dicendo, con soli 5 watt di ingresso, che è il massimo che gli puoi dare come entrata, se lo satura e comincia a saturare, si sviluppa 90 watt pieni, per quanto ne so io, il 747 massimo arriva a 80, 85 può arrivare, non di più. Beh, avanti già. Buonasera a tutti, mi stavo ascoltando. Giulio, 747 e quello lì sono precisi identici dentro. Sono uguali. Non cambia nulla. Marco lo sa, ma... Io già, stavo notando una cosa, no? Che su internet è diventato sempre più difficile da reperire le 747, non so perché. Ci sono una marea di usati del 747, ci sono discussioni sui forum, però proprio in gusto non ne trovo, solo uno ne ho trovato, ma costava 57 più IVA, no, troppo. E già hai sentito me? Natalino, quello di GBC, gli ha chiesto 80 euro. Stiamo scherzando. Ah, cosa? Ma che su cos'è? Ma mi ha chiesto roba di 150 euro in più per un aracchino, fatti un conto. Per una 48. 150 euro in più non voleva far pagare. Quello è tutto pazzo. Ma non è più affidabile, boh. Natalino già lo sa, mi abbiamo comprato insieme, ci abbiamo comprato le portatili PMR, sono preso, mi ha consigliato il Kenwood perché ci riusciva un po' più forte, quello di Natalino, il Midland, 3 volte più forte, usciva e riceveva di più. Immagina che abbiamo fatto le prove, riceveva più quello di Natalino del mio, che era un Kenwood. Ho pagato la marca di soldi, ma nulla. No, non conviene più comprare da Sassari, diciamo, no? Le cose di solo da internet. Oi, oi, oi, guarda. Vabbè, adesso vediamo se Claudio è rientrato. Claudio, c'è ancora il telefono? O è andato a portare il cane? Oh, vabbè, dai. Giulio, ti è arrivato il link, sì? Sì, l'ho già visto, sì, l'ho già ricevuto. Sì, stavo dicendo, Marco, se ti serve un saldatore a punta, 7,80 euro, ottimo, marcato Melchioni, lì da Grassi in Pedanieda, ottimo veramente, non è come quello che vendono dai cinesi, e anche Fusaro ce l'ha, anziché avere la vetina nella punta per tenerla stretta, poi è una porcheria perché appena che si scalda si allenta, e questa qui è fissata con la boccola, e ti dà una punta di ricambio in una confezione, c'è anche la punta di ricambio e poi c'è anche un 22 grammi di stagno per saldare e un pochino di pasta salda dentro un barattolino piccolino, per cui 7,80 euro ed è ultimo, io l'ho già provato, salda molto bene anche il PL, che sono le saldature, diciamo, un po' più grosse di quelle che possiamo fare noi, e va veramente bene, ultimo, guarda, veramente bene. Poi c'è anche la confezione con la pompetta a risucchia stagno, e quello lì costerà qualcosina in più, ma siamo lì più o meno, e lo saldatore è sempre lo stesso. Avanti Marco. Io ne ho due, uno più grosso e uno normale, mi pare della Elfo, non mi ricordo. Però sarei a posto, comunque buono sapersi, dai. Buono sapersi, invece la pompetta aspira stagno l'avevo comprata da poco, l'ho usata anche altrettanto poco. Me ne aveva data una pompone e la pompetta, ma era tutta, non aspirava più, capito? Era rotta in poche parole. E me l'ho comprata nuova. Per quanto saldo io è poca, ma vanno più che bene, dai. Quindi, caro Natalino, facciamo così, sei al telefono? Ah, sono qua, stavo telefonando poco fa quando te l'ho detto. Allora, siccome questo 747 non si prova ed è caro, facciamo una prova. Lo mettiamo in macchina tua, facciamo una prova, vediamo se autoinnesca. Se non autoinnesca, va bene e te lo puoi comprare. Se invece autoinnesca come faceva a me, è un problema. Io ho risolto in macchina mettendo il filtro 27536 della RM Italy, che oltre a attenuare drasticamente gli 80 dB sulle frequenze radio e TV, magicamente mi ha adattato l'impedenza, insomma non innesca più, non auto-oscilla più, quello volevo dire, non auto-oscilla più con quella da filtro. Però sai, io ho la base magnetica, tu invece hai la massa effettiva, dovrebbe andare meglio, no? Sì. E costa 40 euro più 8 di spedizione mio. A Radio Hotel, io li ho sempre comprati lì, ne ho comprati due, uno l'avevo dato a Leoncino, poi me lo sono ricomprato, li avevo regalato e poi me lo sono ricomprato. Ne ho capito. per cui mi, alla fine il leoncino non entra più, se l'ha attaccato al naso quel lineare, boh. E tanto cosa fa tutto il giorno il leoncino? Cosa fa, dove va? Non era meglio entrare allo baracchino? E che ne so io? Ma Gianni! Mido me! Ai, ma fa pompa! Ah, ciao, comunque già ce l'ha Giuseppe il lineare, c'è la casa sua, non lo stagliate usando. L'altra volta la sistemare che è distaccato il coso, il cavetto dalla carica allo stilo. Ah, così è. Che antenna aveva? Dimmelo Antonio, non me li ricordo. Quello con la tua uguale. Oh, il vento gliel'ha fatto. E il vento gliel'ha fatto perché da lui batte un sacco di vento, capito? Forzato. E in pratica gliela ha distaccato, no, l'aveva cazzata, capito? Dovrebbe saltare solo, la piazzina ritorna come prima, l'antenna ritorna nuova come prima. Eia. Però poi bisogna vedere se lui entra, perché non lo so, o non gli piace più il baracchino. Una volta entrava molto più spesso, ti ricordi? Vabbè, guarda, appena puoi fargli questo favore, poi se non rientra ha preso per lui. Sì, sta lavorando adesso fino alle 5 e mezzo, capito? Di Giulio Alghiero, quindi quando rientra non è che ce ne abbiamo portato voglia. Adesso già si sistema o di domenica o di sabato, tanto non lavoro, viene sabato o domenica. Uno di questi giorni già si sistema con l'antenna. Ah, ma sta lavorando sempre per la stagione estiva dal solito tipo, ha cambiato personaggio? Dal solito tipo è. Non so che paghi. Non te che non vado al Ghero, sai, sono un po' di anni che non vado più al Ghero. Andavamo lì, ci mangiavamo la pizzetta, in quella piazzetta dove c'è la torre, poi ci facevamo tutte le bancarelle. E purtroppo lì c'è mamma che si spreca un po' di benzina, alla fine vai lì per mangiarti una pizza e boh, non è conveniente, capito? Tanto vale andare a Pratamona, che la metà dei poveri, quindi ho un bel gelato lì ad Arnesco, e alla fine va bene lo stesso. Ma non si va anche per mangiare gelato, si va per fare una passeggiata, per vedere gente nuova, per farti gli occhi. Tutto si va. Quello sì, ma io per me sarei andato già, però mamma non ha più voglia di andare. Vero, ma Alghero, perché non vuoi mai andare? Perché è lontano, dice. Se parla Alghero parla cose, ci sono inglesi, francesi, lì puoi fare il maniaco, se lo ti dicevo prima. Buonasera a tutti, comunque questo è il caso di salutare Natalino che c'era anche, che ci avevamo fatto, ma non ascolto. Vai, come? Ciao, bravo, grazie a te. Casomai birromane. No, birromane lui è, non birromane. Ciao a tutti di nuovo. Io ho il telefono come al solito. Questi colleghi mi tengono sempre. Ciao Gianni, chi è entrato non lo so. Avanti, riprendi. Ciao Claudio, ciao, buonasera. Ben sentito, dai. Ripeto, sono stanco molto qua, non la giocava nemmeno di proprietà. Tu li lascia tutto a Giulio e poi farà girare. Ok. D'accordo, sì, e ti stavo dicendo Gianni, forse può interessare anche a te questo dottore, tanto per 7,80 che cosa, non prendiamo niente, sai, alle volte ne abbiamo uno, si può improvvisamente bruciare e c'è subito un altro pronto, cioè approfittare adesso che ho visto che ce ne sono poche confezioni, però poi magari quando vai a cercarlo non si trovano, perché ho controllato anche da Fusaro e Fusaro non ce l'avevo quello con la punta come ti stavo dicendo io. Sì, ti stavo ascoltando, ne ho due comunque io saldatori, sono abbastanza completo. E vabbè, per chi non ce l'ha, vabbè. Io ne ho una pistola e uno la punta. Anch'io due ne avrei, uno veramente professionale, uno questa che lo usavano la sciente, lo usavano per fare le saldature dei fili telefonici e me l'avevano regalato, me l'avevano e però si è bruciata la punta, adesso la devo costruire perché quella non si può, non si può trovare qui, almeno qui a Sassari non si trova, però si può costruire, non è un problema, appena che procuro un pezzo di rame oppure di ottone me la costruisco, è facilissimo. Va bene, avanti Natalia. Siamo qua. Ma se il B300 costa una barca di soldi, se non avrei preso il B300. Ma ha pigliato il B231, 45 euro per prima. Natalino. Oh. Quanto costa il B300? 167 euro. Ma è il prezzo suo. Per esempio l'RM Italy, il KL 200, no, il KL 503. È una bella bestia, massimo da 250 watt in AM, costa 167 euro ed è tutto MOSFET, non satura, l'importante è pilotarlo basso, tutto MOSFET, è uno spettacolo, c'ha 9 MOSFET di cui uno pilota e gli altri sono i MOSFET di potenza. Figurati. Ma costano un sacco di soldi, mamma mia. Il BV131, tu ce l'hai, Antonio? Io non c'ho quello, io c'ho il BV della CTE, capito? Quello che c'è una valvola sola con le manopole. Il BV131 c'è 45 euro, quanto ne vuoi, ce ne so. E dove 45 euro? Su internet ce l'hai, quanto ne vuoi, c'è dentro anche come lei la transistor, se non vuoi quella valvola. Magari con le valvole esaurite. Allora penso sia esaurita, io ho visto nuovi, c'è dentro quella la transistor, al limite si perde quello, ed è più o meno lo stesso prezzo. Ah, quello già è vero, già c'è la versione anche a transistor, quello già è vero. Sì, ma quale transistor? Così è diventato a 220 oppure a 12 volt si può diventare? Adesso non lo so, Antonè. Dovrebbe essere trasformatore d'ingresso a 220 e poi a 12, dovrebbe essere. A meno che non sia a 24, forse monta magari il finale del BV2002, quella transistor. Ah, ho capito, sì, quello non lo sapevo. Se c'è la versione anche a transistor, questo sì, già lo sapevo, ma non ero sicuro del fatto dell'alimentazione. Ma mi stai dicendo che c'è in tutte e due le versioni, a 220 e anche a 13,8, dai, 12-13,8. I voltaggi sono questi. Va bene, avanti qua. Voltaggi di che cosa? Il BV131 con lineare, stavo parlando appunto, l'ha chiesto Natalino, se ce l'aveva Antonello, ma a lui ho quello per la macchina, tu hai quello per casa, cioè a 220, e a lui interessa a 12 volt perché è per la macchina. Sì, no, io c'ho quello lì, era pesante, capito? Conservato. Ce n'è uno, ma se non c'è Antonio Grover, da parlo di 50 euro, non lo so, il 231. Ti ripeto, se a me mi dice via, io sto telefonando ora e me l'avrei preso fuori. Perché è una vergogna, qua si asse 80 euro, mi sono lineato. Purtroppo così, mi stavo guardando adesso mezzo dove ho tutti i PL e tutte queste cose, ho trovato anche un altro adattatore, quelli SMA del portatilino, solo che va combinato poi con un altro N e diventa PL259. Sì, va bene, adesso ne ho due. Io l'avevo comprato la volta scorsa, l'avevo comprato due, uno l'avevo regalato, uno me l'avevo tenuto, adesso cercando, l'avevo già, vabbè, comunque, quasi niente, meglio così. Comunque, è una cosa allucinante, no, io non ero di quei lineari, ce l'avevo prima, l'avevo dato, non ricordo neanche a chi, capito, se avessi avuto anche un 300, un B150, qualcosa del genere. Io l'ho dato volentieri a Natalino anche a usarsi, tanto io in macchina non mi piace, ma non ho. Per la macchina non c'ho niente, ce ne ho solo uno, UHF da 200 watt. Quelli così, capito? quello sì. L'unica cosa che mi manca sempre, e non la devo comprare, è il commutatore d'antenna. Il commutatore d'antenna lo voglio prendere, così non sto sempre scambiando l'antenna dal baracchino al K. E così, vabbè, comunque, non è una cosa così interessante, cioè così urgente, però lo voglio comprare. Al prossimo ordine che faccio ci metto anche quello in mezzo, così me lo fisso al tavolino e non sto sempre attaccando, anche perché l'HF, cioè l'H1000, è un pochino rigido come cavo, e per cui dà un po' di fastidio. Invece quello che è attaccato alla radio lo lascio sempre fisso, l'altro è collegato al commutatore d'antenna e al limite rimane sempre fisso, fermo, non lo devo mai spostare. Quello non l'ho mai comprato, ne ho uno, ma non serve, quello che lo sentite lì, in mare si rampo, figurati, ne ho uno a quattro uscite, è una bucalia, per carità. Vabbè, comunque, andate già. Mi piace essere lontano, non attaccare quello del PG, comprati un commutatore, quante radio c'hai? 2 newsi, comprati un commutatore a 2, massimo 3. Non lo abbia stazione, compralo buono, lo paghi, non andate a comprare quei commutatori da 20 euro, da 10 euro, perché non servono a niente, capito? Non chiudono, ti rientra la radiofrequenza sull'altra radio, ti brucia tutto, comprate quelli buoni, capito? Io ho quello della Kenwood che mi commuta sino a tre vie, che praticamente è quello della T230 che fa rollatore, rosmetro wattimetro, commutatore d'antenna. Io lo uso solo come strumento, commutatore d'antenna, basta, capito? E commuto da una parte dall'altra. No, non comprerei di sia ZG, commutatori buoni, in modo che chiudano bene, che siano a contatto proprio secco, non vi sia lamelle a scatti, che non servono a niente, ti brucia solo la radio e ti crea problemi. Ma io sono interessato a prendere quelli a cuscinetto, a pallina, come la vuoi chiamare, dai, a pallina, lo scatto, c'è la pallina, dalla Daiwa mi sembra che sia, sì, se ricordo bene, ho visto quello e mi piace, è bellino, se poi funziona bene, ma suppongo di sì, ma lo voglio comprare a tre uscite, quindi ci posso anche mettere qualche altra cosa, magari ricezione, tipo il ricevitore, eccetera. E vedremo, dai, io penso che quelli della Daiwa siano buoni qua. Sì, Daiwa, puoi prendere quella Daiwa, poi c'è anche quell'altro della di Frank la Diamond, mi pare, capito, la Revex, è roba professionale, non comprare i cosi o piscine, diciamo fesserie, quelli ti fanno solo danno alla radio e basta. Io ho questo, ripeto, sui due 430 e 440 uso quello della Kenwood, della T230 e commuto da lì. Per quanto riguarda le antenne io le commuto con quello americano della Meritron a 5 vie, però è a relè, cioè a relè elettronico praticamente, alimentato, quindi con il quattro box giù e sopra c'è la scatola di derivazione con tutti i relè, capito? Quindi elettronico alimentato a 12 volts. È praticamente la cosa migliore sempre da fare, perché le relè chiude e non ci sono problemi, però quello è un commutatore d'antenna professionale della Meritron lì, costa 250 euro, però a voi non vi serve, a me serve per commutare le antenne direttive. Va bene, avanti Gianni, non ha ripreso, Natali, vuoi riprendere tu? No, adesso no, un attimo, sto scrivendo. Ehi, Marco, riprendi. Ehi, volevo chiedere a Giulio, eri tu che avevi chiesto da Grassi un toroide, giusto? C'è ancora quel ragazzo bassottino che lavora lì? Sì, c'è sempre perché l'ho visto ieri che sono andato lì. Stavo dicendo, sì, quando ho chiesto un toroide mi ha detto, cos'è? Non sapeva nemmeno che cosa fosse. Mi è scappato da ridere, ho detto scusami, non ti offendere, ma sai com'è. E lì, nemmeno fa la posta, stavo entrando un antennista, stavo entrando, stavo bene, c'è uno di quei di quei cerchietti dove si fanno gli avvolgimenti per le bobine eccetera, per i trasformatori, l'impedenza eccetera. Ah boh, non lo so, no, non ne abbiamo noi, no, no, non lo conosceva nemmeno, anzi forse non lo ha mai visto Marco. Sai cos'è? Quello è Giampiero, si chiama Giampiero, ed era con me all'Istituto d'Arte. All'Istituto d'Arte. E lui non ne sa di roba elettronica, era stato all'Istituto d'Arte e non ha fatto studi di quel tipo, ecco. Hanno assunto giusto per fare il commesso, ma non era preparato, dai. Insomma, un ragazzo simpatico, l'ho visto l'altra volta a Decathlon. Ok, non ci farà le ossa, dai. Sì, ok, no, io ne ho tre, i 200, ne ho due, tre ne ho di quei, uno avevo fatto un coso, un maro, avevo fatto, poi ne ho altri due conservati, già, prima o poi già si possono usare, li userò, prima o poi li userò anche per sperimentare, eccetera. Va bene, va bene, e non costano poi così eccessivamente, però arrivate da fuori, fate arrivare da fuori dal continente, per cui ce ne ho due che non li sto utilizzando, l'altro vabbè, avevo costruito un barone, ma ce l'ho conservato, pronto per l'installazione, eccetera. Anzi, a dire la verità, l'avevo anche provato e va ultimamente bene. Va bene, avevo fatto un maro 4-1, avevo fatto. Vabbè, avanti qua. Via. Sì, no, io ne avevo due piccoline, ne avevo anche Natalino, provo a essere risolveva quel rumore, però non penso che sia roba di attenuazione così da altrove, è un disturbo un po' più forte. Qui io ce ne ho attaccato uno sull'uscita della metazione, uno sull'uscita della centrale, ma non è che mi servano più di tanto, comunque io ho messi, ci sono. Vabbè, non è Marco, però uno che cioè, si andava a fare un commesso panatteri, che ordinano pane, capito? Pane, sai, pane, però se uno vuole fare il commesso, non è questione di elettronica, l'elettronica è varia, quindi non vorrei dire che ti dia una resistenza per un diodo, cioè, a Gimbazzetti, No, vabbè, lui non è di quella materia, ma si farà le ossa, dai. Avevo un quesito per Claudio e per Antonello Pomponio. Allora, avete presente gli MRF 455, quei finali tondi a bottone che hanno le alette e i contattini in croce? Ecco, vi risulta che siano MOSFET o non MOSFET? Quelli che hanno il contatto a croce, quelli ho già visti, mi sembra che quelli li monti proprio il 747, qui sei certo. No, quelli i contatti a croce non sono MOSFET. Quelli sono quelli che usa il B300 e compagnia varia. I MOSFET sono quelli che hanno i contatti che non sono a croce. E sono tipo il 1969. Quindi sicuro Natalino, non sono MOSFET, giusto? Giustissimo. Ah, buona sapersi. No, sai perché te l'ho detto? Perché la REM, il cappello 203 ha 4 MOSFET. Vedi MOSFET, infatti esce bene. Poi c'è un REM cappello 300. Che ha il MRF 455, ne ha due, però se non è MOSFET potrebbe uscire male, come alcuni ZG. Poi c'è, bellissimo, che piace a me, l'RM KL 503, che ha 9 MOSFET, di cui l'uno è pilota, gli altri sono 8 MOSFET, cioè il mio ne ha 4, quello ne ha 8. Ed è tutto MOSFET, quello sì che deve uscire bene, c'ha 250 watt in AM, quello piaceva a me per i VX, molto molto, e costa solo 164 euro. Se io dovessi scegliere tra un come si chiama, quello ZG che hai detto tu, disparità di fasce, l'RM Italy, io sceglierei anche più se l'RM Italy, perché a MOSFET riesce bene anche da M, capito? Anche il 747 a MOSFET, solo che ne ha di meno perché, capito, ne avrà due. Il 1.7 ma lo usava più di 50 watt. Non è 4, il 747, 4 MOSFET, come il 203 RM Italy. Capito, buono a sapersi, meno male che me l'avete detto. No, perché mi stava salendo la scimmia di vedere un linearetto più grosso, 3DX. E il 503 è veramente un bijou, Lì però c'è il problema. L'alimentatore non ce la fa. Il mio, che è 30 ampere, ci vuole il 50 ampere. E più l'antenna non ce la fa, perché quella c'ha 500 watt di picco in banda laterale. Quindi ne devi dare un terzo fissi in AM, che in AM ne sopporterà 150, 170 e boh. E anche in banda laterale devi stare un po' attento a non scaldarla troppo. Ok, vabbè. Tutto lì. Guarda, se devi sentire cose per casa, mi conviene prendere quando vuoi volare, gira gira, o Marco, che ne spara 120-130, te ne spara, il BV-131 è più che sufficiente per quello che vuoi utilizzare tu. No, troppo poco, pochi watt rispetto al mio. Poi una cosa, Giulia, nuovo non si trova più, non lo producono più, sono tutti usati, io usato non ne prendo più, perché tutti garantiscono valvole al 100% e poi non sono mai al 100%. E poi spesso sono toccati, li fanno ponticelli, li fanno modifiche, no, o nuovo niente. Allora era carino, sai quale? Non il BV-131, il BV-135 era bello, era come il 131, un po' più lungo, aveva due valvole, non so se lo conoscete, quello era veramente, ma veramente carino. Oh, esattamente, quello del BV-132 l'ho avuto anche io. Poi vado a portare il cane, se ci siete dopo, se no mettetevi tutti salutati, che ho visto che vi sono già le 8:20. Dopo se ci siete. Ok, a dopo. Ok, qua a dopo, ciao. Sì, Marco, sì, 132 anche quello è ultimo. Ti chiedo un'informazione sul MOSFET di quello che hai tu, di quello che mi hai detto che hai tu. Vai, saluta Claudio. Ehi, ciao Claudio, sono una passeggiata col cane, non farti tirare troppo, se no ti fa giga G, eccetera. Devi essere tu il capo branco lì, capito? Devi farglielo capire al cane. Allora, ho preso il filo, Giulio, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ho detto che se quello lui mi ha detto, con l'RM che hai tu, se ha come MOSFET, se ha il 1307, MS 1307, quei quattro copiati lì. Allora, la ditta non lo dice, si chiama RM3. Giù di lì, usa una sigla per non far sapere quali sono, però potrebbero essere, adesso che non mi ricordo le sigle più, non mi ricordo le sigle. Che sigla hai detto tu? Guarda, se tu mi stai dicendo che lo stesso modulo del 747 è quello, allora è MS1307, ce li ha anche Fusaro, però non sono quelli originali cinesi o giapponesi, che siano quei MOSFET lì. Tant'è vero, lì da Fusaro costano anche poco, però non hanno la resa di quelli originali, perché quelli originali costano un pochino, MS1307. Sì, allora sono quelli, perché sì, sono quelli allora. Loro la ditta li chiama RM3, in modo che se uno non sa nulla, va a delineare alla ditta e glielo cambiano lì. Però i dati siano quelli. Se il 747 è quelli, sicuramente sono quelli. E dicevo, questo 503 è una bella bestia, Solo che sono sottoalimentato io. potrei tirare a sfroccio lineare, potrei arrivare a 20 ampere. Con 20 ampere dovrebbe dare 150 watt, 503. Molto bello però. So che se penso a lineare i lineretti alla fine comincio a fare guai, non conviene Giulio, tengo 100 watt e faccio prima. Cosa volevo dire? Mannaggia, ma c'è Alzheimer, non mi ricordo quello che devo dire. Ecco. Infatti non conviene caricare troppo, qualche per evitare complicazioni, sai, non si sa mai. Perché se carichi poi il discorso digitale va a farsi friggere e oggi è già un vantaggio. E a proposito, sai che avevo letto sul giornale che la frequenza TV la dovrebbero utilizzare per i PC e la frequenza TV dovrà essere cambiata, per cui ti puoi immaginare che casino sarebbe. Sai cosa significa? Significa che i televisori che abbiamo non funzionerebbero più, a meno che non costruiscono poi un ricevitore come il digitale terrestre che c'era prima dell'ultima generazione dei televisori, capito? Sarebbe un pasticcio. Cosa volevo dire? Se il BV131, no, con una valvola, il BV132 e transistor non lo conto, c'era il BV135 che era leggermente più grande, più lungo, aveva ben due valvole, quello era veramente ma veramente bello. Io sono stato sul punto di prenderlo quando finalmente avevo i soldi, quando mi sono deciso era appena uscito di produzione, già non si trovava più. Quello era veramente carino, dava più watt del 131, magari non il doppio, ma metti che ne desse, non so, forse 200, è molto carino. E non lo fanno più, purtroppo non lo fanno più, sono usciti di produzione, nonostante le valvole si trovino, perché si trovano i sostituti delle valvole classiche, alla Russia si provano i sostituti, ma non ne vogliono più fare, ormai li fanno tutti elettro, come dice, allo stato solido, transistor ormai. Sì, beh, certo, lo so, ormai la valvola diciamo che è un componente sorpassato, però devo dire che sono sempre le apparecchiature migliori, quelle valvolari sono sempre le apparecchiature migliori, tanto più che più scaldano e meglio funzionano, naturalmente poi raggiungono la temperatura, si stabilizzano, non è che va all'infinito il riscaldamento delle valvole, è ovvio, è così anche per i trasformatori e così un po' per tutti i componenti elettronici. Sì, è vero. Va bene, comunque, cosa ci vuol fare? Oggi poi si stanno orientando su altro tipo circuitale, non è più il circuito di una volta, oggi è SMD, come si chiama, con il nuovo circuito che stanno utilizzando oggi. Qui è un macello, non ci possiamo mettere più le mani noi. Magari uno che ha la mano ferma per tutta la strumentazione, ma ci vuole una mano ferma, mamma mia, che io non ho. Mi stavo guardando i linearetti. Sì. Ecco, la RM Italy continua a fare quelli a valvole, ma sai quali fa? I top di gamma. Per esempio c'è questo RM Italy, tappa LV1000, è da 1000 watt, capite? È un mostro valvolare. Ed è anche un bestione, bello grande. Fanno i top di gamma, quelli grossi, però quelli piccoli non li fanno più, purtroppo. Perché la RM Italy faceva gli stessi modelli. Tipo faceva la copia del BV131, la copia del BV135, prima, adesso non li fa più, c'è poco da fare. Ma sì, sicuramente, perché in questo modo i circuiti sono sempre quelli, magari può cambiare anche qualche componente, però sono sempre componenti compatibili sempre a quel tipo di circuito. Infatti il 131 mi sembra che montava la 519 come valvola, anche la 509, e così il 132, per cui, e probabilmente anche il 135 aveva sempre quel tipo di valvola, magari aveva un qualcosa in più su altri componenti per avere più potenza, perché mi sembra che il 135 arrivasse a 250, come il vantaggio. Sì, esatto, aveva il 135, aveva due valvole 519 anziché una. È carino, era una valida alternativa a chi voleva un po' più di watt. Vabbè, vedi qua, sto guardando il sito di questo RMI, no, come si chiama? SR Radio Hotel, vende da battipaglia, sono tutti transistorizzati, tranne quello da 1000 watt che costa 800 euro quasi, 800 euro, quindi costa 795 euro più 25 euro di spedizione, pensa quanto pesa. Purtroppo è così, lo so, ma io negli anni passati ne ho avuto uno, sempre da 100 watt a volare, però non c'era paragone con quello, con le valvole italiane, tipo il 519 oppure la 509, avevo le valvole proprio originali americane, ma erano un qualcosa di straordinario, adesso se ricordo bene era J81, poi qualche altra sigla che adesso non ricordo più, una cosa del genere, proprio originali americane, erano delle bottiglie, erano con le valvole, proprio belle, belle, belle. Poi infatti mi si era messo in corto il trasformatore, dava la scossa, dava, perché evidentemente l'isolamento dell'avvolgimento del trasformatore faceva contatto e dava la scossa. Funzionava lo stesso, però dovevi stare attento a non toccarlo perché prendeva la scossa. E sono andato a comprarlo, il trasformatore costava 80 euro, solo il trasformatore, ho fatto, boh, lascia perdere. Allora l'ho smontato, infatti ho recuperato un po' di cose, tipo condensatori variabili, le valvole le avevo recuperate, le avevo regalate a un amico e così via, proprio perché non mi interessava più, non potevo cambiare il trasformatore con 80 euro quando costava 120, mi sembra, il tutto lineare. E infatti, dava la scossa, quindi, figurati. Vediamo che se c'è rimasto Antonello Pomponio. Antonello, ci sei? Lui va e viene, tra un bicchiere e l'altro va e viene. Io stai così, a volte sai, l'isolamento del trasformatore ci vuole poco, basta tenerlo un po' acceso più del solito, e poi aveva i suoi anni, aveva tra l'altro, aveva anche due strumenti, bello, e quindi ce li ho ancora. Però l'avevo dati, a quello di Usini, gli strumenti, li avevo recuperati e li avevo dati a quelli di Usini, a Tonino Attela l'avevo dato, e li avevo piazzati nel suo lineare che aveva, Tonino Attela, te lo ricordi, di Usini? Mai sentito, purtroppo io... Molti personaggi, non me li ricordo perché stavo nel mio gruppetto di coetanei modulare. Anche Pomponio mi dice ti ricordi quello, no? Stavo nel mio gruppetto finché c'era, eravamo sull'uno sotto ed eravamo coetanei bene o male, per quello ci trovavamo meglio. E poche me ne ricordo di persone del baracchino, anch'io non è che me le ricordo tutti, però diciamo che una buona parte di persone già me le ricordo ancora, allora, no, se dovessi impegnarmi un pochino avrei anche un libro dove ci sono tutti i nominativi di allora, ma ci sono tanti, tanti, tanti, ma tanti, anche di quelli che facevo i collegamenti fuori, ci sono tantissimi. Tantissimi, ma chissà dove è finito, forse in mezzo alla libreria, che ne so, non lo so, ma un domani o prima o poi mi capiterà tra le mani, ma non è che mi interessa bene tanto ormai, il discorso è questo. E vabbè, prima eravamo in tanti, io e Marco, adesso siamo quattro gatti, per cui no. Adesso non ce li possiamo dimenticare, abbiamo pochi numeri da ricordare, dai. Adesso ci possiamo contare sulle punte della mano, vabbè, forse due, ma considerando Alghero e dintorni Polo Torres, vabbè. Lino, finito di scrivere? Hai le idee più chiare? Ma è un casotto, se non è ragazza non ne puoi comparare. Mazzarino, sei strappato, parla lontano, strapponato. Pure metti il macchino a metà. Sì, sta mettendo il presidente e questo ce lo butto. No, quello va benissimo, altro che butti. Dimmi, ti vuole là? La carta. Se non hai la carta non puoi comprare un cavolo. E a me mi si girano le scatole. Sono andato stamattina e non sono riuscito a farla. Ma 80 euro, scusa, è un prezzo da ladro proprio. Con 80 euro ne compri due di quello mio, due ne compri, più la spedizione. Cerchiamo anche, lui sa cos'è, applica la lettera e listino. Il listino è sempre più alto del normale, lui lo applica alla lettera. Te le immagini. Purtroppo il 747, il suo internet non si trova. Uno lo vende a mai 57 euro più IVA, più la spedizione, quindi alla fine ti costa lo stesso un bel di soldi. Non so perché, il 747 prima si trovava molto molto più spesso, sia su internet che sui negozi, adesso sembra che non ce l'abbia più nessuno. Eppure è in catalogo. Midland ce l'ha sempre in catalogo il 747. Sì, vabbè, già mi avrà già arrangiato. E se no mi buscherò uno di quei di 300 usato, non si usa, non si troverà. Ma ricordate che il B300 usa gli MRF 455, quelli a croce, mi. E allora siamo sempre lì, quelli non sono MOSFET, possono saturare di più. Con la MOSFET è un bijou, un bijou. E perché a me fa gola il 503? Quello è veramente una bella bestia, Può uscire con 200 watt in AM, anche di più, ma sai, la mia antenna non so se li regge. Perché la mia regge 500 watt di picco, io immagino che continui siano un terzo, non la metà, ma un terzo, quindi 150-170. Comunque a me sono un bene, 170 watt in M, sono sempre un bene. E la mia non tiene 800. Quale? Quella che ho io. Ma di casa? No, di macchina. E 800 però ricordati di picco, ma laterale. Quindi un terzo in AM/FM, un terzo. Nemmeno la metà, io non mi fiderei a mettere la metà perché potrebbe scaldare. È un terzo di 800, siamo 250, 250 watt, è a voglia. Basta farlo uscire così, basta poi non mettere la manetta, lo metto in quarta posizione invece che a sesta. Per quello che piace a me, il 503 ha 6 posizioni, scatto, capito? Puoi fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi puoi regolare la potenza, perciò è un bijou. Potrei usarlo anche a 150 watt con questo alimentatore, anziché 70 me ne darebbe 150, tu dici non è molto, è solo il doppio, col doppio non aumenta nemmeno di un Santiago, lo sai, è mezzo Santiago, per aumentare di un Santiago dovrei quadruplicare i watt, quindi 7x4, aspetta, 28, 280 watt dovrei mettere, no, non conviene. Il rapporto watt spesa è troppo elevato, vero Giulio? Per me sì, ma è una cosa piccola, quando c'è una buona propagazione non c'è bisogno nemmeno di lineare, basta il watt solamente della fanicchia e basta, e quello che conta è sempre la propagazione, quando è buona basta andare sulla frequenza 27.500 più o meno, 470, 475, siamo lì dai, in quelle frequenze lì 520, 510, 515 e così via, 525, lì c'è il preparatore che manda la telara naturalmente, USB, e lì sai come arrivano sparati, ma proprio io quando voglio fare il DX vado lì, vado e chiami, è la prima chiamata, ti sentono, Sì, guarda, l'altro giorno, giorni fa, c'era una bella propagazione anche italiana e c'era anche Fabrizio Mascherato, ci siamo divertitissimi, stavamo anche un po' così giocarellando, gli italiani arrivavano che erano bijou, la Goliarda, c'era uno dalla Svizzera che parlava mezzo italiano, aveva una cubica, pensa. Poi si parlava con Linearetto, tipo 100 watt in AM, era un bijou, arrivava in 9 come niente. Qui però il moto, cioè se la propagazione italiana si è chiusa, si è aperta quella estera, capito? Francesi, tedeschi, inglesi, e quelli vogliono fare però in fretta di ex, no? Gruppi Alfa Tango, gruppi non rimangono a chiacchierare molto, quelli vogliono fare collegamenti. Invece gli italiani tendono più a parlare del tempo, sai, di quelle cose lì. Certo, quello già è vero. Sì, ma io devo essere sincero, non ho più quella passione una volta, di ex ormai. Sì, magari capita, se quest'anno è capitato, dai. E se risponde, se ti chiamano è giusto anche rispondere. Oh, prima andavo proprio e me ne cercavo, anche durante la notte, soprattutto la mattina presto, e quante volte negli anni passati alle 6 del mattino alzarmi presto proprio per sentire una rotta che c'era sempre lì a Brindisi, soprattutto infatti avevo fatto amicizia con quelli e bastava che gli mandassi la portante e poi mi capivano che ero io. Sto parlando di parecchi anni fa questo, e c'era una certa questa come si chiamava quella lì, Rina mi sembra, con quella avevo fatto tantissime cose, ma lunghe anche delle ore addirittura, incredibile. Comunque ormai anni passati non c'è più quell'armonia di prima, Marco. Io adesso non posso nemmeno più ascoltare, ma le HF, perché ho venduto l'857, il quadribanda, non sto più ascoltando neanche in HF, ascoltavo ben poco comunque, meno un po' stufatello. Io prima ancora, tempo fa, avevo quel ricevitore, sembra una radiolina, no? Riceve tutti i radioattori panda laterali, il Texun 660. Sì, bello, diceva bene, però alla fine a sentire giù i discorsi l'avevo venduto. E così ho fatto fuori anche il quadribanda, dai. Antoni, per tenerlo fermo in scatola è inutile. No, ma no, non mi dare niente. Ok, no, ho già mangiato. No, dimmi Giulio, vabbè, insomma, ho fatto fuori anche quello. Tanto roba rimane ferma e si rovina. Uno se non la utilizza, allora cosa se fa? Avere un qualcosa e non utilizzarla è come equivale a come non averla. Per cui, tutto sommato, hai fatto bene allora a vendertela e realizzato qualche soldino. Con quei soldi ti puoi comprare un'altra cosa che magari ti interessa di più, almeno al momento. Va bene ragazzi, dai, sono già le 8, io scendo a cenare, ci sentiamo. Grazie per la chiacchieratina, intanto mi dici Marco se la radio mia sta andando sempre bene, sei chiara, perché così l'avevo completato il discorso con la riparazione, era un contatto che non era perfetto e con il nuovo saldatore appunto quando l'ho aperto mi sono reso conto che c'avevo questo contatto un pochino fasullo, l'ho rifatto e sembra che vada bene. Va bene, ciao Marco, grazie per la chiacchierata, a domani. Ciao Nathalie, ci sentiamo a domani. A proposito di Nathalie, stamattina ti stavo aspettando, non hai in grado di venire. Pensa che mi sono letto tutto il Corriere, il tutto sport mi sono letto. Seduto lì aspettando, adesso arriverà Natalino, Natalino non si è visto. Riprendi Nathalie, poi Marco mi dice se la radio è sempre buona. Sono rientrato? Mi c'è anche Claudio, è rientrato. Vabbè, ciao Giù, alle prossime allora, si sta chiudendo. Io lo stesso mi preparo a cucinare qualcosa, se no non si mangia qua. Ok, va bene, avanti Marco, ciao Claudio, saluto anche a te, sto chiudendo, dai, vado a cenare. Marco, la radio, anche Claudio, la radio è sempre buona, sì, non è che si è rovinata di nuovo? No. Ciao Giulio, dai, ho sentito, stavate parlando di batterie, forse ci vuole la batteria più nuova, avevate detto, no? No, non è che sia molto carica questa, comunque sta, noi lo diamo un ometro che già sta funzionando bene, perché quando è carica, cioè quando è sufficiente la batteria, il modulometro di questo microfono arriva con lo scala, per cui dovrebbe, mentre invece quando incomincia a essere un po' scarica, si ferma prima del rosso, si ferma, ma sembra che va bene ancora. Ci sentiamo domani, dai. Ciao Claudio, Natalino e Marco. Alle prossime, ascolto Pinolino, poi chiudo. Ciao, ciao, riprendi ancora Marco. Via. Ciao Giulio, dai. Ci sentiamo alle prossime. Ripeto, cercherò di entrare in radio più spesso. Domenica dice arriva un caldo africano, sicuramente ce ne andremo al mare. Forse anche sabato. Dipende dal tempo. Voglio diventare nero dalla bronzatura e se il mare è bello caldo mi faccio anche il bagno. Tanto lì ci sono le docce. A proposito, ho sentito che fra 7 giorni iniziano anche lavori alla rotonda. Sì, Claudio, iniziano i lavori, però ho sentito che vogliono mettere a posto solo quel pezzo che è caduto, non vogliono rifare tutto ex novo, da zero. Capito? Hai letto il giornale, Claudio? Sì, sì, l'ho letto. Tanto saluto Giulio. Ciao Giulio, grazie per le chiacchiere. La cena con tutte le prossime, dai. Fatela buona, la radio è perfetta. Sì, l'ho dato uno sguardo, stanno facendo le cose in economia, capito? Cosa dici che duri? Lì per poter fare una cosa fatta bene, te l'ho già detto, perché ho visto il progetto, ok, addirittura c'è tutto un sistema nuovo per quanto riguarda tubazioni eccetera, lì per rotonda che roba di 40 anni fa, le attività commerciali che ci sono. Il progetto esecutivo era proprio lo scavo arrivare sino al piano praticamente sottostante dove c'è, okay, riempire nuovamente tutto e fare tutto il cemento armato quello vero, non cemento e sabbia, cemento armato per appunto proteggere dalle mareggiate, dallo svuotamento appunto dell'acqua, capito? Invece adesso li raccolgono, riempiono lì, fanno il muretto nuovo, tutto nuovo, ringhiere nuove, e fra un po' di anni siamo punto a capo, magari ci scappa anche il morto, capito? Ciao. Ciao Lu. Vogliono rattoppare, poi ne cade l'altra parte, magari ci scappa davvero il morto. E poi quando lo fanno in estate, no? Appena scoppia la stagione turistica. Così ci sarà un casino di ruspe e non ci riuscirà manco a arrivare al mare, vedrai, te lo dico io. Ma chi ci va lì, hai capito che è morta? La zona è morta, ciao Gabriele. La zona è morta, non serve più niente a nessuno. È finita l'era dei sassaresi di Cotamon, te lo posso garantire. Perché fa veramente schifo, a me non piace, io sono anni che non ci vado più, quindi ripeto, quando c'era lì, c'avevo anche l'abbonamento, ci andavamo con mia moglie fine settimana, adesso non c'è più, dice che hanno fatto un lido nuovo, il lido di Sardegna, ma io ancora non sono andato manco a vedere, figurati quanto me ne può fregare meno. Avanti Lucariello. Adesso per fare i lavori cacceranno via la mia ragazza, così è. No, magari è la volta buona che vanno all'alloggio, capito? Tanto lì sicuramente ci saranno le ruspe, ci saranno mesi di lavoro, anche che farla mettere lì sotto la tettoia del tram, magari danno l'alloggio sulla ruspa direttamente. Sempre in estate poi li fanno i lavori. Appena inizia la stagione, tipo giugno, non li capisco, invece di fare a settembre, no. No, noi ci siamo stati tutto l'anno lì alla rotonda. È comodo, ci sono le docce, ci sono i cessi, c'è il bar. Volendo c'è la guardia medica lì, non so se si attiva tutto l'anno, però ci dovrebbe essere. Abbiamo sempre parcheggio lì nel vialone, quindi a me fa molto comodo andarci. Adesso vediamo, in base al casino che faranno non si riuscirà nemmeno a passare, vedrai. Che il diavolo se li porti. Va bene. Ciao Luca, riprendi. Luca, ho visto che hai cambiato di nuovo la foto del coso di WhatsApp, ci sei sempre tu in costume, senza pacco, liscio come una bambola. Vuol dire che si è girato, capito? Si è messo dall'altra parte. Si è messo dall'altra parte, no? Io WhatsApp ci ho bloccato, quindi se aspettavo ci sblocchi, perciò non mi mandate niente perché non vedo niente. Lo sai che a me è arrivato appunto il messaggio, dice la versione di WhatsApp è obsoleta, bisogna aggiornarlo. Io anziché aggiornarlo mi è venuto meglio disinstallarlo, reinstallare e tenere tutti i contatti e le foto che mi avevate mandato. Adesso l'ho reinstallato nuovo, quindi sono tuttora disponibile, funzionante. Forse a te è successa la stessa cosa, te l'ha bloccato, no? No, c'è talmente roba di lavoro che adesso infatti devo portarlo in ufficio, devo scaricarmi tutta la roba che c'è di lavoro su un dischetto, su un pennino, e poi vedrai che riprende a funzionare. Troppo carico, capito? Non c'è, non ne apro lui, però c'è fatto per il momento. Va bene, va bene. Spero un attimo. Puttarie, ma vuoi riprendere o no? Magari ha dovuto fare roba in casa, dai. Però già c'è. Ci ho preso e gli ho detto che liscio come una bambola, no, già c'è un bel pacco Luca, dai, si si può scherzare. E intanto lui sta andando al mare, alla faccia mia, mi ha già messo un paio di foto con due costumi diversi, io sono andato solo una volta, mi devo rifare, e a Claudio. Poi naturalmente piace sempre Polo Polo, quando avremo l'occasione andremo anche allo Scoglio Lungo, forse a Palai, forse alle Acque Dolci, però ci teniamo sempre Quinto Pettine anche, io ho sentito che hanno ridotto drasticamente i parcheggi e in più hanno messo la pista ciclabile, quindi non si potrà parcheggiare nemmeno nella via litoranea, insomma hanno rotto le palle tutti. Ma tu ci vai sempre, al mare vai sempre lì, io vado sempre lì alle saline, capito? Non ci vado mai a Porta Nuova, sono anni che non ci vado, però quando c'era il nido di Sassari ci andavo, ho fatto anche un Ferragosto lì, capito? Ho prenotato perché avevo l'abbonamento, quindi sono quell'uomo e poi abbiamo fatto niente, abbiamo pranzato lì, abbiamo passato una bella giornata, però poi da lì, quando ho chiuso lì, non sono più andato io. No, noi non andiamo in lì di pagamento, Noi abbiamo 10 ombrelloni, ci abbiamo sedie di tutti i tipi, spiaggine, cazzo, lettino, è inutile che vada a pagamento a pagarmi il lettino, l'ombrellone quando ce l'ho già. Portiamo tutto, noi andiamo in zona libera. Poi ogni tanto si andava al Quinto Pettine quando si poteva, poi stavano facendo lavori, avevano chiuso tutto, un po' lo Scoglio Lungo, un po' vorremmo provare le Acque Dolci per esempio, perché lì non ci siamo mai stati. A me piaceva lo Scoglio Lungo perché c'era il mare attaccato, capito? Ti pigliavi un gelato, un caffè, eccetera eccetera. E chi c'è rimasto? Facciamo l'appello. Pomponio ci sei, Natalino ci sei, Luca ci sei. Io voglio dire, sono le 8:10, già vorrei cenare. Ma bello Palai, a me piace anche Palai, proprio l'altro giorno non l'ho mai praticato, come non ci vado mai io al mare con l'altro. Vado sempre lì alle saline, capito? Alle saline, lavoro l'Alghero. Basta, le saline anche lì, c'è un bellone, dove hai detto no, Marco sei, cazzo sei, io lavoro tutta la settimana. La prima volta trovavo quello che andava a mare, ombrellone, sdraio, traiette, borsa a frigo, no, proprio niente io vado dove c'è la comunità, capito, dove giro, sto tutto il giorno, sdraio, ombrellone, lì alle saline favolose. c'hai tutto, un bellone draia per due, non stai lì a, secondo me cosa ti posteggi la macchina, arrivare a, al posto per rilassarti, ovviamente che hai fatto quattro viaggi di casarella di reggimento, no, non mi piace a me così. Ah, ma di solito lo prendiamo noi, il parcheggio vicino, sei un passo dal mare, non è che qui sei mamma anziana, quindi scegliamo spiagge abbastanza agevoli. E in più vorrei poi fare un'altra tattica, userò un'altra tattica, per non far camminare mamma, quei 100 metri che ne so. Lei la faccio scendere direttamente alla rotonda o comunque proprio vicino al mare con la roba sua, poi io parcheggio, prendo la roba mia e la raggiungo. No, noi siamo abituati a fare tipo pionieri, capito, con la roba presso, ma non ne portiamo borsa frigomi. Se ci portiamo, ci portiamo qualche bibita in una piccola sacchetta a gelo, ci portiamo roba frugale da mangiare. Invece c'è la gente, padre della mia ex ragazza, di una delle mie ex ragazze, si portavano le pentole con la pasta asciutta, si portavano le pentole con la carne già precotta, ma stiamo scherzando. Lì si può mangiare un tarino, un tramezzino, una cosa frugale, cazzo, loro ci mangiavano il primo, il secondo, la frutta, la verdura, stiamo scherzando. E anche per chi ti vede pare un affamato, un remotato sempre. E si portavano tutti, dal primo alla frutta al dolce. Guarda, con mia madre, noi tutti in famiglia lo sapessi, e mamma faceva i panini. Abbiamo la mano di Gigione, vedi, pure salata di riso, capito, roba così, tortolette impanate, polpette fritte, patate fritte, lumache, lumaconi, l'anguria tagliata tutta a pezzi, era una festa, capito, facevamo festa perché c'era il gazebo grande, ombrellone, gazebo grande, con i lati chiusi, il tavolo tutto dentro, con le sedie, ma era un lavoro, era un lavoro solo per preparare, ci voleva due ore, ma stai scherzando. Adesso, però, mi ricordo che mio fratello, ad esempio, era più grande di me, andava alle 7 del mattino, prendeva il posto, piazzava il gazebo, tutto, quando arrivavamo noi era già tutto pronto, ma erano altre cose, adesso di cui andare. Adesso, io ad esempio non resisto tutto il giorno al mare, con mia moglie andiamo, che sono le 10 del mattino, alle 4 e mezza, alle 5 ce ne stiamo tornando, capito? Non è come quelli alle 8 sono già lì, finta di 7, 8 di sera, l'orario più bello, ma non te tanti, lui lascia verde, capito? Ti mangi un panino al volo, ti porti una frutta, una cosa così, e già vai a ingozzarti. No. Io le saline io sto bene, perché c'è tutto, c'è il chioschettino, ci sono gli ombrelloni con le draie, 12 euro, stai lì, senza stare a viaggiare, non stai scherzando, non sai la strada che c'è da fare, da dove metti la macchina, c'è quel parcheggio grande, da lì fino ad arrivare alla spiaggia, un chilometro e mezzo, avrà mai frigorifero, draie, draiette, no, lascia perdere. No, così diventa un lavoro, sì. Pensa che io tutta la roba ce l'ho nello zaino. Devo pigliare al massimo una sedietta da spiaggia, che sono quelle in alluminio, pesa un poco. No, come facevate voi era davvero un lavoro. Ah, perché c'è le lumache al mare? Ma le lumache al mare, le patate fritte, non stavo scherzando. Voi sai cos'è? Noi quando andiamo al mare non andiamo con l'idea che dobbiamo mangiare. Andiamo con l'idea che si può avere uno snack, che ne so, una barretta energetica, un tramezzino, una cosa minima, un piccolo panino, non che devi riempirti, no. Deve essere una cosa giusto per spezzare l'appetito, poi mangiamo a casa e poi non siamo tutto il giorno, assolutamente. Sia per me e anche mamma, non può stare tutto il giorno al caldo, anche se all'ombra. Noi siamo 3 orette, andiamo alle 2, alle 3, torniamo alle 6, alle 7, così. Oppure di mattina, anche di mattina possiamo andare, sempre che riesco a svegliarmi. Portiamo cose, anche mamma lo zainetto, quindi la maggior parte della roba è sulla schiena. sulla schiena non se ne accorgere meno, perché ci vuole ricurgito. Cosa cazzo, mi ha battuto di Gigione, cazzo, di Sassarisi andava nei curi Gigione a mare. Sì, non solo a Tari Sassarisi, ma pure tu Turresi, ti sto dicendo che mamma, stava due giorni cucinando per andare domenica mattina al mare, capito? E andavamo lì a Fiume Santo, amico, già mi si andava via, a Fiume Santo, mangia barraccone, barraccone. Ma mica c'era gente che ci portava a bere qui allora, e arrostiva pure, carne arrosto, salsiccione, pancetta, facevano i pesci, arrosto. Sto dicendo che era una cosa che c'era, ma lavoro. Mio fratello, il fratello di mamma, mio zio, io arrivavo sempre l'ultimo di tutti. Ma mio fratello, mio zio, fratello di mamma, perché andavamo 3-4 famiglie, amico, un fiotto di bacione. Due gazebi di quelli grandi accoppiati con quel tavolo in plastica, 3-4 di quelli in plastica grandi, tutti vicini. E ci siamo mancati da 20 bacioni, tutte le unioni ci portava le sedie sue, pieghevoli, in legno, capito? Birra, vino, di tutto. Ah, ti sto dicendo Marco che era a mangiare. Immaginati, facevamo il bagno solo di mattina, dopo pranzo non ne potevi fare più il bagno perché dovevi fare dopo 4 ore, di tutto ci potevi mangiare dolci, ognuno portava chi le pasta, chi la torta, e crostate, e quello, era proprio una cosa allucinante, e lavamani di Gigione, polpette, misciughe, polpette fritte, poi c'era quello che portava il polpette asciugo, maestrane fritte, maestrane parmigiana, di tutto vera, ah Natali, anche quella pacchetta di cioccolato, ma non capì. Le coppolette, il gas, di tutto a regalo. Allora, di tutto. Di tutto, è passata di cuccoli tu. No, già nella teglia, mi manco, già pronti, freddi, lascia perdere. È successa di giovinita anch'io, che ho gazzetto, tutto arrado, bello, non trovo nessuno. Una bella partita a carte, sempre vino fresco e gazzosa. E via, e su che andiamo? Roba di giovinita, a virmi, la giovinita la bruciava. Allora, la giovinita. E che brecca, avanti. Giuseppe, guarda, non ti sento io, immaginati gli altri. C'è propagazione e ti sta coprendo la propagazione. Ciao, buonasera. Lo so che Platone è un bel ricordo. È un bel ricordo sì per tutti, però avessi un mortorio. Ti sento molto, molto. Non è colpa tua, ma c'è un sacco di querrema, Giuseppe. Marco, lo senti Giuseppe? Sì, però c'è qualcuno sotto che tende a coprirlo un po'. A momenti lo sento, a momenti no. Questo che sta parlando, la propagazione, sono l'FM. Sì, stanno invadendo il canale nostro, è uno scandalo. No, comunque Claudio, io quando vado al mare non è per mangiare. Mangiare poi mangio a casa, lì porto uno snack, qualcosa. A me piace pigliare il sole, poi quando ho caldo faccio il bagno. Poi mi prendo un po' di sole, poi il bagno, poi il sole, poi il bagno. Faccio così, capito? Se io vado a mangiare, a buffarmi, ne devo stare sotto l'ombrellone all'ombra. Ma per 3 ore o 4 ore aspettare di fare, non esiste. Io vado al bagno per fare bagno sole, bagno sole, bagno sole. Se proprio devo mangiare qualcosina, me la mangio in acqua, così lo stomaco è già abituato alla temperatura, capito? Non ti viene un colpo. Sì. Sto dicendo che era la festa grande, ma ti parlo di 20 anni fa, capito? 20 anni fa, mamma, adesso il urbacolino, qualche sono fatte, ma prima, 20 anni fa, 25 anni fa, ti dico, io ero già sposato, avevo anche la bambina piccola. Però andavamo ed era una festa alla grande proprio, ci mettevamo d'accordo, tu Gianrichi, io vai tu e tu Gianpulto, va bene, ok, capito? No, era proprio lì, posteggiavi la macchina, c'era questo piazzole e subito la spiaggia, quindi mi va anche bene, capito? Fuori che prendevamo il ghiaccio quello così, e avevamo una bacinella di quelle grandi, ma di quelle grandi, enormi, un due manici, lo prendevamo in due, e gli mettevamo tutto l'anguria, il vino, la birra, l'acciata, gazzosa, di tutto. E fino a quando non avevamo finito di mangiare tutto, bere tutto, non si andava via, lì sì che rimanevamo fino alle 6, alle 8, anche alle 9 di sera. Una volta anche le cozze gratinate ce le avevamo portato, guarda. E cozze non le avevamo, di cozze ne avevamo mangiate a quintali, ma crudi maromi, c'era mio zio che le portava alla Urbia, lavorava la scippa allora, prima di Telecom, capito? E quando lui andava a fare gli augari con i negozi, c'era un amico proprio andava lì allo stabilimento, alla grande industriale, arrivava a quintali, le pulivamo, ognuno se ne prendeva un sacchetto, le puliva, crudi maromi, capito? Cozze crude, limone e vino, cozze crude, limone e vino. E se no maniera arrivava con Marco. Io sono stufo, mi piace tantissimo anche adesso, ma avrò mangiato quintali di fave ribisari al mare. Fermi così, olio, prezzemolo, aglio, guarda, una cosa allucinante. Cosa regava, mi era una cosa fantastica. Senti, stai dicendo anche quelle gratinate, ci avevano portato le cozze. Io ero un ragazzo, e con un limone, i grudi che santi che l'avevano mangiato. Avevano matrivo a mangiare i grudi, io ho cotto nulla. No, ma prima lo sai, Natali, prima cioè le cose del club si potevano anche mangiare, poi hanno iniziato tutti questi problemi, anche a Olbia, capito, non fa più. E le sardine che non abbiamo cucinato a Fiume Santo, ne ha Bugaroni, Marco. Aspetta di sardine, chiama mio zio, a mamma, regaluta che va giù le cascette di sardina, mezza grassa. E fermo sardine a Ruffo oggi, va bene, e allora via, quello portava le sardine, l'altro salsiccione, pancetta, il tuo 19 era una cosa da paura, ma da paura, certo adesso non si può fare più, o non si fa più, la tradizione è passata, ma ci sono persone che ancora oggi portano tutte queste cose, hai capito, al mare. No, non è nel mio... Non è come piace a me quello, assolutamente. Io vado al mare per il mare, farmi bagno, cioè per abbuffarmi, mangiare, posso starmene in campagna, posso starmene anche a casa. Al mare vado per altro, non per mangiare, no? Infatti quando quelli là si portavano le pentole, la roba da mangiare, tu questi sono scemi forti. Cioè vengono al mare per mangiare, e il mare dov'è allora? Non ti puoi fare il bagno, non puoi fare nulla. Ma... E ridi che mamma ha fatto gli gnocchi. Vediamo, mi ha mangiato di gnocchetti qua, al sugo, uffa, le cose, le cotolette, di tutto il regalo. Tu sei truppa al signor Riccardo, Marco. No, il problema è quello. Se vado al mare per fare bagni continui, un po' di sole, un po' di mare, poi un po' all'ombra per non scottarsi troppo. Se vado a buffarmi è finito lo scopo, finito. Bene, bene, bene. Fate vobis. No, ma non era una questione di andare a buffarsi, Marco. Era proprio una cosa... Non ti posso dire, ma secondo me era una tradizione, non lo so, cioè, capito? A volte si criticava le mura, sono visto e regato tu, ecco le avevo visto, le visto già preparato. Ma ti sto dicendo che era proprio un lavoro vero e proprio, ma madre stava si alzava la mattina presto per preparare tutto, non era fa panino, adesso. Per dire, quando andiamo a mia moglie portiamo un po' di frutta, la frutta tagliata, melone, lo pulisco e lo metti dentro il contenitore, anguria, la stessa cosa, oppure frutta, pesche, adesso, la frutta di stagione. E poi un panino a testa con tonno, pomodoro, mozzarella, cose così, capito? Roba fresca, ma un paninetto a testa e basta. Prima era proprio la tradizione, ci volevano certe bancate a Fiume Santo, era una cosa da paura, ma bancate anche di 20-30 persone, capito? Veglia, ma Fiume Santo è inteso come il Cimanno? Santo lì dove c'è la centrale, lì, dove si fa ancora oggi al mare, insomma lo so, io sono anni che non ci vado. Guarda, con Ivan varie volte siamo andati a Cimanno, no? Allora tu guardi il mare e Fiume Santo risultava a destra, ad alcuni chilometri a destra, a Cimanno. Belle pescate di raggi, mi. Anzi erano proprio non raggi, quelle come si chiamano, quelle che pungono. Le. Mannaggia, non me lo ricordo, le. Vabbè, quelle lì. E lì c'era, caspita, mare bello pulito, però niente scogli, non c'era l'ombra di uno scoglio, poco acqua e boh, e sabbia. Io anch'io andavo a Cimanno quando ero fidanzato. Lì è Cimanno, Natale, dove c'è Fiume a Fiumaciano? No, è Panda Anchibi, però è in una campagna entro il ramo, che il mio socio la conosceva, il padrone. Ho capito, prima di Fiume Santo, sì, ne parlavano sempre, a volte si trovava il cancello chiuso, capito, sì, ne vai su Battoli, chi va, sì, ho capito, lì è di mano, più avanti c'è Fiume Santo, e anche lì è molto bello, ma l'acqua lì è molto calda, Marco, è sempre bella pulita, capito, è un bel posto, ho bei ricordi di quella, di quel posto lì, chiaramente, insomma, si cresce, io non sono più andato, non poi anche mia madre ha iniziato a non andare più al mare, a volte andava lì proprio allo scoglio lungo che è vicino, capito, le abita dietro, praticamente lo scoglio lungo lì a Portovese, quindi è vicino, andava lì, che sono prima è da Romagna Ghizzo, Battiani, Fiume Santo, Torrara, Nucci, Robuccio, poi ci montavamo al buio, con i fari della macchina, sto dicendo tutto, l'estate lì, quindi tu immagini anche che ora che fa buio l'estate, poi sono le 8:30, ma la luce che fai ancora, noi ce ne vamo pure, arrivavamo a casa, ci dovevamo fare la doccia e a nanna, finito. Guarda, io la prima volta che sono andato a Cimanno mi sono spaventato, sembrava un campo zingari, pieno di roulotte, di tende, c'era un vero e proprio accampamento di villeggianti. Poi purtroppo sono intervenuti i vigili urbani, hanno fatto casini su casini, una volta hanno detto roba a noi anche perché eravamo andati a fare la dormita in tenda di notte. Per fortuna poi non sono più tornati e noi abbiamo dormito in tenda. E poi, ma io la persona non le capisco, Claudio. Non le capisco. E poi è successo, insomma, quello che è successo. Posso dire solo boh. Sì, perché lì, se Natalino si ricorda, era un vero e proprio campeggio, capito? Che la gente si aveva fatto la barracca in legno, a fianco alla roulotte, dove lì era la cucina, poi il problema sai qual era? I servizi igienici, non c'erano servizi igienici, quindi tutti in quello spazio di finestra che c'era, a fare visioni, e qui e là, non detto una parte, non detto all'altra, è chiaro che stava diventando una cosa da zingari proprio, con tutto rispetto, e quindi è chiaro che hanno vietato assolutamente il campeggio, come io ho conosciuto a Platamona, le casette che c'erano nella spiaggia che erano bellissime, erano molto belle, però ti ricordo che erano tutti senza fogne, c'erano giorni che non si poteva stare in spiaggia dalla puzza che c'era, capito? Erano tutti abusivi, però io lì ho conosciuto proprio tutto il litorale pieno di casette anche belline, fatte anche bene, però il problema era quello, il problema era sempre quello, capito? Uno scafo sotto la sabbia, un gommo, capito, messo sopra, così, un tubo di ghisci grossi, la notte messo a scaricare in acqua, mito da me, capito, quindi non era una cosa da poter durare a lungo, fino a quando il comune non si è deciso di far sbaracchiare tutto, di lavarne tutto a terra, capito? La stessa cosa stava succedendo anche a Fiume Santo e Cimanno, la stessa cosa. Mia suocera c'aveva un appartamento al sesto pezzo, a tutti i murabura, ventura, grazie alla Bocoveduia. Sì, in attuali bellissime ce n'erano bellissime lì dal sesto, tutto il ritorno di Platamona, tutto, ce n'erano veramente molto molto belle, ma belle, grandi, però ti ripeto, erano tutte condizioni dove non poteva, vabbè, gruppi elettrogeni, c'era chi aveva chiesto l'allaccio della luce, però chiaramente lì era una cosa un po' diversa, non quelle che erano più verso la strada, che riuscivano ad avere la luce perché i pali erano vicini. Capito? C'erano tutti gruppi elettrogeni, cioè una cosa zingarata, rugio, non era una cosa bella, capito? Non era una cosa bella da vedere. La stessa cosa, più da zingarata stava succedendo sia a Fiume Santo che a Ettimano. È chiaro che poi il comune, penso sia Tintino, quello portatore, se non so, abbia appunto fatto una massa lì. Vabbè, i tempi erano comunque macabri, i tempi perché rimangono sempre bei ricordi, era un divertimento, c'avevamo il mio zio c'era anche il gommone, quindi scendevamo il gommone, a tratti dal carrello, sino alla battista lì, capito, la scevamo, io ho fatto giù il gommone, andavamo lì a fare un giro, insomma, i ricordi di quella zona lì. Adesso non so manco come è fatto, perché sono anni che non ci vado, almeno sarò 20 anni che non vado lì. Allora, in un primo periodo, no? Io ti sto parlando credo forse dal 2005 in poi, no? Era libera l'entrata, no? A un certo punto hanno messo una rete e c'era una ragazza che faceva pagare il parcheggio dicendo che era privata, quel territorio, terreno, quello che vuoi era privato. Insomma, poi c'è stata, ne hanno parlato sul giornale, c'era stata questa diatriba, demaniale privato, demaniale privato, alla fine non so come sia finita, cioè il comune diceva che era demaniale e invece uno sosteneva che era privato, non si sa mai come sia finita, non l'ho mai saputo perché poi più a Ettimano non siamo più andati. Non lo so, ti ripeto, io non ho mai visto una cosa del genere. Dove ha detto Mattarino, mi ricordo che anche mio fratello mi aveva detto appunto che c'era il cancello e c'era il pastore. Siccome lui lavora all'ASI, si conoscevano con questo, capito? Lì c'è un pezzo del territorio di Grande Strada che è del consorzio ASI, e quindi si conoscevano e lo faceva passare. A lui, la moglie e i figli, però è un uriato di barracche e barracconi, capito? Quindi quello lo so. Il resto di questa cosa non sapevo niente, non l'ho mai saputo perlomeno, non lo so. Lì ci sono pezzi di terreno sotto lì a fianco alla centrale che sono di proprietà, appunto c'è quello, come si chiama, l'Edola, mi sembra, c'è l'Edola, cioè, che infatti è tutto piantato a trigo, molte volte noi dovevamo fare le lumachine, ma non mi ha giobbita, quando mi si allucinato, lo mio zio, ma sembrava lumache grosse, capito? Infatti non voleva entrare quando c'era il grano prima di passare la trebbia. Una volta poi passava la trebbia, ti faceva proprio se andare, faccio un po' le macchine e anda, ti faceva entrare, però quando c'era il grano non ti faceva entrare, capito? Allora, aspetta, sto guardando un catalogo e cambiando argomento. Natalino, sono senza parole. Non so che sei senza parole. Quando tu senti queste cose io pensavo ci venisse il vomito. No, non per quello, è lineare. Allora, sono sul sito della Midland, proprio sul sito della Midland. Vedo che disponibilità non disponibile, cioè il 747, la Midland l'ha finito, non ne ha più, ecco perché non ce n'è più in vendita. Poi sai quant'è il prezzo di listino? Più di listino, 81 euro. Quindi lui, quello della GBC, ti ha applicato alla lettera il prezzo di listino, però non è il prezzo reale, il prezzo di listino è sempre il prezzo molto alto. Comunque sì, la Midland l'ha finito, non ne ha più, per cui in giro non ne vedi. E vabbè, vuol dire che è uscito con i soliti 8 baschi, mi sente. Ma io ti ho detto che c'è il mio, come il mio. E alla fine è la stessa cosa, mi. basta che non vada in auto-oscillazione, per te va più che bene. Ma quello delle renne è buonissimo con gli altri. Però vedi Claudio, ha questo vizio di andare in auto-oscillazione. Qualcuno l'ha fatto in macchina, qualcuno l'ha fatto in casa, però sicuramente aveva un impianto un po' andante. Però in auto-oscillazione non so se finale la bobina, quello che è, non l'ho mai capito. Io in macchina, a me in macchina mi faceva questo difetto, ho risolto mettendo il filtro famoso dalla RM Italy, quello a 5 celle, no, che elimina scuri e armoniche, quindi oltre ad avere un'emissione pulita in macchina mi ha eliminato questo difetto dell'auto-oscillazione. Io per l'RM Italy ho avuto quello in V1. Funziona benissimo, e l'ho anche preso quella della non volevo dire fretta, vabbè, comunque sono migliore, ne ce l'ho ancora, però funziona molto bene qui. La 27 non ne ho mai sentito parlare male, quindi non so cosa dirti. La panina va bene anche con quella detta G, un B150, una cosa di 300, di 400, non se ne va. La 350 watt in macchina andata lì. Se va lì, io vado a cadineare alla prima potenza 50 watt, arriva il capo al mondo, va vero. Arriva una bomba, no? Capito? Quindi, per me, dipende da quella della detta G, un B150, è più che sufficiente. No, per carità, il B150 monta quei finali schifosi a croce, ce l'ho anch'io, è uno schifo, ce l'ho anch'io, è una boccaria, esce saturo, anche con pochi fatti d'ingresso. Oh, e come mai? Ma è proprio fatto male il lineare? Sì, sa, finali non adatti, dai, ci vogliono finali e MOSFET per uscire pulito. E Natali piglia finali MOSFET. Il cappello 203, se ne vuoi più potenti ce n'è anche più potenti. Non prendere l'RM300 perché ha i finali a croce, l'MRF455, quelli non sono MOSFET. Figlia, sono lineare a MOSFET, guarda, questo è un comandamento, il consiglio che ti do, se vuoi uscire bene, se vuoi uscire male, figlia di 1150. Ci sono anche quelle della Microset che funzionano molto bene, io ce l'ho quello della Microset, però è sempre VHF. Sempre VHF, quello finale a MOSFET, lo stesso c'è proprio scritto MOSFET, c'è anche l'amplificatore d'antenna, FM, SSB, capito? Però il VHF della Microset, che costa una barca di soldi, quello che ho io sarà un pochino più grande di un 747, costa 350 euro. Cosa? Chi ti ha parlato? Un extraterrestre. Se la vedete pomponi o mi? No, non puoi arrivare a fare la scala, allora vedi chi è? Mi ricordo la pomponi quella volta che ti savi che c'era bulldozer a casa tua, ti stavi pisciando dalle risate. Con Natale è bello, volevo dire a papà io. Capito? Se tu vuoi vedere quello che c'ho io, della Microset. Adesso mi ricordo la sigla, c'ho dentro l'armadio. Costa 350 euro, solo VHF. Boia, Talino. Comunque io saggiamente ho scelto questo. L'avevo già avuto una volta. L'avevo già avuto una volta, uguale, il 203. Poi l'avevo regalato a Lucino, riuscivo a basso e poi me l'ero ricomprato uguale. E lo ricomprerei di nuovo, se si rompesse, lo ricomprerei volentieri. Ma è quello della RM? Sì, il 203, quello da 100 watt. Funzionano bene quelli dell'RM, funzionano molto bene. Benissimo, funzionano alla grande. Vabbè, no, io il mio la 27 non ho bisogno, la radio sia il 430 e il 440 è sotto i 100 watt, quindi lui HF c'ho il 2100, fra 10, 15, 20, 40 e 80, non è più che sufficiente, oltre un kilowatt, quindi solo per quello lì. Macchina non ne ho, le bue le luce le ho tutte ho 300 watt, quindi va benissimo alla grande, però quelli sono bei linearetti, sono bei linearetti. Poi la macchina, io penso che il 747 ha fatto sia il numero uno i lineari della macchina, perché esce veramente bene, molto robusto, non ha mai creato problemi. Purtroppo non si prova più. Pensa, la Midland l'ha finito e ho paura che non le porti più, allora si uscirà anche di catalogo. E con quei prezzi che fanno, 80 euro. Capito, prezzo di listino alla lettera, perché la mia antenna 90 euro? La mia Energy 90 euro, perché lui ha applicato il listino alla lettera. Se io controllo sicuramente costa così. Nessuno applica listino alla lettera mai, né la Intec né niente, o meglio se vai grassi però applica la lettera, il prezzo, altro che... Ma lui è un fuso, a te non ha chiesto quanto costa, da pigliato listino 81-80 euro, non glielo tenavo gratis. Arriva, costa 80 euro a listino, ti posso fare 60 euro, no, capito? Ma no, questo pieno, cosa sì, è un cannibale, lascia aperta. Quindi non puoi massaggiare, no? No, ce l'ho bloccato, non lo cerco neanche, anche Massimiliano mi aveva mandato una foto, visto che non l'ho letta, allora mi ha chiamato, no, bloccato, devo scaricare tutti i programmi che ci sono di lavoro, voglio lì, c'ho tutta la memoria piena. E ogni volta è così con il telefono, carica, non sai, tu durante la giornata io ho foto che faccio al lavoro con quel telefono, foto e mando, mi rimangono tutti in galleria, tutte, capito? Quindi adesso quelle vanno tutte scaricate, c'è un dischetto, una chiavetta, adesso lunedì lo porto in ufficio, lo faccio vedere tutto. E poi si ripristina da solo in automatico, capito? È un casino. Faccio un po' di foto, tutto quello che è lavorazione, conduzione, eccetera, va tutto fotografato. E poi, vabbè. E cosa stavo dicendo? E vabbè, ma se guardi al computer, comunque ci sono, non ce n'è usati, avete controllato il 747, ne ho visto uno da poco. Su eBay ce n'era uno, 40 euro spedito. Ma piuttosto che pigliare un 747 usato, poi lo sai che sono tutti manomessi, perché la gente tenta a migliorarli le manomette, e il mio è nuovo, si trovi 40 euro nuovo più la spedizione. Aspetta che ho trovato la in Energy, cosa te avevo detto? Allora Claudio, io ho comprato la New Energy 5 ottavi della Midland, su, al posto solito, 90 euro di listino, 90 euro me l'ha fatta pagare, non ha tolto un euro. Lo sto dicendo, io volevo mettere una antenna VU, piccola, un XI300, una, capito? Per un'altra radio base che ho, che praticamente però ma non la uso, 780, perché ho 790. Capito? E sono andato, ho detto, perché c'ho una carata ancora libera. Ho detto, ce l'hai? Sì, e quanto costa? Guarda, tanto ti posso fare 70 euro. Una ghita cagata, con le ghiere in plastica, di ghita, 70 euro. Se costa la Diamond, ho detto, meno di questa. Ho detto, ma io finisce, ma stavo per litigiare, capito? Ho detto, vabbè, Tony, no, non mi serve, no, non è affidabile, la di plastica, non come la Raimo che quando piega, capito? Di fibra, lascia aperta, non ne ho preso, 70 euro, che ti posso fare, poi se vado a guardare, costa 70 euro. Ega, aspetta che ti dico il prezzo della Diamond X300 da Mediaglobe, che è quello che è i prezzi più bassi, e sì, te lo sto aprendo, io te lo dico quanto costa, vediamo il prezzo. Io ho comprato X510, modello nuovo dell'X500, 5 vetri, quella grande, della Diamond, l'aveva comprato a volte, l'aveva fatta arrivare 100 euro, figura di tutto, della Diamond. Signori, io vi saluto perché me ne vado a vedermi un po' di TV, ci sentiamo alla prossima, vai. Ciao Patalì, a domani se coincide. Saluti dalla signora. Grazie, grazie, ciao Concè, un saluto anche da parte di Filippo. Ciao Natalino, salutone in casa, buona cena, buon cotto domani. Altrettanto, ciao. Beh, anche tu c'è l'antenna. Aspetta che non mi apprezzo, qua la connessione è lenta, aspetta. Allora, Mediaglobe è i prezzi più bassi di tutti. Ho fatto un controllo, invece uno dei più cari è Radio Shop. E io e Atte, da questo sito, va in ora mala. X300. Ecco, è ne naturalmente. Se vedete, allora, andiamo a X300N, antenna di banda, 73,80. 73,80, però è Diamond, capito? Non è Midland, non è un'imitazione di cacca. Io cosa ti ho detto? Che con 70 euro andavo a comprare la X300 e la Diamond, capito? Lui non ci credeva, e non ci credeva, perché la 510, che è quella più grande di tutti, io l'ho pagata a 100 euro, capito? Quindi, lo sto dicendo, ma guarda, 70 euro è dopo un'antenna di plastica, con le ghiere di plastica, che il sole te le spacca, che si riempie d'acqua. Ah, non te mandi. Vai, vai, Gito, tienitela, tienitela. Ma entro 70 euro il prezzo fuori, magari la paghi anche di meno, capito? La paghi anche meno. Vai, ti fanno 70 euro compreso il trasporto, però c'hai l'antenna giusta, però non servono a niente, proprio zero sotto zero. Io ce l'ho anni, guardi che si era rotta una staffa, adesso vabbè, in punta al traliccio, in punta al sistema, la 510. Ma quando era su staffa si era sradicato, una mescalata si era sradicato il rispetto del cornicione e nella caduta si era appoggiata praticamente, si era rotta la punta. Ok, ho preso il tubo bianco, sempre in polietilene, ho preso il tubo bianco, e l'ho infilato dentro, l'ho fatto il tappo nuovo, ma sai quanti anni ce l'ho così? Sono anni, anni, anni. Quella lì invece, perché quella lì è resina e quindi va bene, quella lì invece sarebbe spaccata in due, perché è tutta di plastica dura che non serve a nulla. E vabbè, vabbè, comunque. Va bene, Marco Condo, dai, le 9:10 sono, tu hai già papato, io ancora non ho papato, quindi ti saluto, me la vado a papare, saluto Giuseppe, sei ancora in ascolto, ma arriva molto molto basso qua, molto basso nel senso che lo copre il QRM, sono un medico QRM, oggi non so perché, forse sto un vento maledetto. E chiunque fosse in ascolto, un saluto circolare a tutti, dai. Ci sentiamo domani, Marco, ok? Ehi, Claudio. Veramente conta 73,80 più la spedizione, non so se sia 10 euro, tanto è tutta smontata l'antenna, però il Diamond, ricordati, puoi trovare eventuali pezzi di ricambio della Diamond, quindi ho capito, dai. Ok, buona cena, buon tutto, ci sentiamo domani, salvo tempo bello, va a essere tempo bello, mare subito. Magari iniziano i lavori, poi sarà un casino, ok? Quindi, ok, abbiamo parlato di varie cose, comunque Natalino, se vorrò fare una cosa bella, se piglia il mio, è proprio che è bene, però prima facciamo le prove, perché se auto oscilla anche dalla sua macchina, il filtro costa altre 30 euro, non so se gli conviene, dovrà rivolgersi a altri prodotti tipo ZG, anche se, mamma mia, il 150 è un po' una cacatina, vabbè, vedrà lui, dai, noi prima facciamo la prova, se va bene se la compra, ok? Buona cena, buon tutto, salve a casa, eccetera eccetera, un bacio ai figli, ciao. si dice un bacio ai bimbi, dai, ciao, chi è il robot? Io capito, ciao Paolo, non lo so, vabbè, ciao Marco, vai, io bimbi non ne ho, la mia bimba è al lavoro, quindi va 30 anni, oramai. Ci sentiamo, dai, a domani, ciao, ciao, che c'ho fame, ciao. Ciao, ciao.